folía cuando tú me dirás que lo voy a querer, tú lo sabes, sparirai, sparirai, anche tú. Perché noi siamo sci di due navi che vanno e non si incontrano mai. Vedi, noi siamo scie di due stelle cadute. Desiderio, lo sai. È lenta questa marea, svelto questo di sé, coprirà tutto e noi marinai tutti giù prima o poi cambia idea, cambia idea anche tu. Perché noi siamo scie di due onde lontane che si rincorrono ormai e chissà se mai si incroceranno strette in una sola scia. Vedi, noi siamo scie di lampade.